scuote il mondo dentro. Io sono il tormento di questa cosa qua. Voli nell'aldilà, sono romantica, mente, la tua mente piccolina e nella sua pam pam. Non c'è più nessuno assassinato per te, voilà. Sono come un mitra che fa male la partita qua da campione. Sta a scarseggiare di amore. Volo nell'aldilà, una rosa perfetta nell'anima. Rimango qua, rimango come fango. Io sono qua, baby, e non piango. Faccio musica insieme a uno spettro che e con cui rifletto. Rimango qua, riflessioni di musica per l'eterno. Oh, rimango qua, struttura dell'anima. Sono come un puzzle che non puoi completare. Pezzo troppo difficile manca su questa scacchiera. Avanza il pedone universale con un potere sovrannaturale. Può guardare negli occhi le regine e baciarle. Rimango qua con una pedina, ma che vale tutta la scacchiera, quella del guerriero che alla fine vince la partita e mangia il re. Rimango quello, la mosca Scarfaro mi fa una sega. Sega. Un bacio nell'aldilà profondo con la lingua. Rimango di qua con un blonde. Tu sei la mia baby blonde, mi sprisci. Sarei rasata.